Dormi e vedrai, sognando nascere un mondo dove tutti i bambini faranno un giro tondo, tenendosi per mano, neri, gialli e bianchi, cantando una canzone finché saranno stanchi. Dormi nel sogno, vedrai sorgere il sole sui campi di frumento e sopra le persone, con tutte quelle spighe faremo tanto pane, non ci sarà più morte, non ci sarà più. È ancora lunga, hai tempo per sognare sopra un villaggio asiatico, un aereo polare, non lancerà più bombe, ma petali di fiori per colorare i cieli, per riscaldare i cuori. Ricorda questi sogni, domani al tuo risveglio c'è un mondo da cambiare, da rendere più bello. I bambini giocheranno, si potranno divertire ed il mondo malato presto potrà guarire. È un sogno ad occhi aperti, il mondo di domani.